adesso il segnale dovrebbe essere ancora più forte, comunque, perché stavo uscendo con due volte. Ma la radio com'è? Pulita o ed è brutta come radio? È K di positivo? No, perché stavo facendo praticamente delle regolazioni sul trimmer. Era troppo preamplificato, quindi diciamo che ho abbassato leggermente la preamplificazione dall'interno. Volevo sapere appunto se era pulita, se lo posso chiudere. Volevo sapere se c'era la preamplificazione, se andava bene o se devo sollevarla ancora. Guarda un po' adesso, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. QSL e OK. La volevo chiudere, però volevo sapere appunto praticamente se la preamplificazione andava benissimo, capito? Questo è ok, allora diciamo che la lascio così, dai. Se va bene, ok, adesso provo a provare un altro tipo di microfono che ha fatto una modifica. Volevo sapere appunto cosa stavo uscendo. Allora, questo è l'altro microfono che ho fatto la modifica, un microfono da tavolo, un MB+4, com'è? E questa è lei, dai. Allora lascio questa. C'è stato un break, mi pare, avanti. K, fai un passaggio che ti voglio ascoltare meglio. Aumenta leggermente la radio. Lascialo così, va bene. Sì, va bene. Puoi aumentarla ancora un altro pirino, però per me diciamo che va bene. Chiodo, lo ascolti, Eugenio, da Porto Torres. Questa è la line, riprendo io. Sì, Eugenio, 5759 è qua. A picchi positivi, la radio è ultima, va benissimo. Come sto arrivando giù a Papatango io? Vedo un po', 1, 2, 3. Vabbè, mi interessava se la radio era buona e se va bene. Di positivo, allora lascio questo il microfono, dai. Ho fatto quell'altro microfono LM300, ma non mi piace UG. Ascolta, a quanto ce l'hai adesso? Lasciala a 8, però la batteria è carica, sì. Allora, se tu lo porti a 8, praticamente sta fischiando di brutto. Sì, c'è un fischio sotto, non so cosa sia. C'è sempre questo un fischio. Confermi, chiodo, lo senti? Ce l'hai sempre sotto, o è il canale forse. Spostiamoci un attimo sul 30. Thank you. Hola, c'è qualcuno su 10? Attento 10, c'è qualcuno? Hola? Attento 10? Che avanti? Ciao Roberto, buonasera. Ciao già, e beh. Eia, iniziamo a mordinare, dai. No, lascia stare acceso 5-10 minuti, dai. Sento lontano, in lontananza qualcuno che parla, probabilmente sono quelli di Ozieri, però non riesco a capire perché c'è molto disturbo atmosferico, dai, per cui non riesco a sentirli, ma da segnale sono loro intorno al 7. E poi basta, ho sentito poco fa uno che ha mandato una portante e ha fatto un fischio, però non ha risposto. Eia, ci hai fatto caso quel segnale che si sente sul 12? L'hai sentito? Ma quando questo? Anche adesso. Aspetta che mi sposto. Sono un FM. Cosa, vabbè? Sono in FM. No, no, ma è un segnale. Cazzo, c'è da un paio di giorni. C'è questo fischio con questo rumore sotto. No, adesso in questo momento stanno parlando sul canale 12 in FM, sono fischio non è certo, a meno che non ci sia qualche, non è che tu c'hai qualche lampada neon, lampada LED, che quelli creano quei disturbi. No, negativo Robert, niente di tutto ciò, è comparso da qualche giorno. E poi anche sulla cosa 27-120 c'è un segnale lo stesso. Io adesso non ho possibilità di attaccare il misuratore in campo per vedere che cosa c'è, se no avrei visto quale dato rispetto. E poi metto su che frequenza? 27-120 credo, praticamente sì, 27-120 c'è questo segnale già da diversi giorni. Aspetta, faccio entrare per curiosità. 27-120, allora 27-105 non è un segnale d'accordo dalla Grecia? No, 27-120. 120 non c'ho niente, c'ho un QRM altissimo, però non sento niente. Io ce l'ho qua a Santiago 4, è veramente fastidioso. Poi non parliamo quello del 12, cioè proprio... Se lo registro te lo faccio sentire, dai. Ma non è che c'è qualcosa... Allora, adesso bisogna stare attenti con queste linee wifi, possono avere un'armonica che magari ti disturba, non lo so, qualche spuria, non dico armonica perché lavorano in frequenze alte, qualche spuria che magari o qui cerca persone, apri cancello, tante cose possono essere. Ho capito. Te lo ricordi tu, non so se avevi visto la notizia, non riuscivano a cavarne i piedi di questo problema che ci avevano. Alla fine, lo sai cos'era? Un ascensore che non era schermato il coso, l'alimentazione, come partiva, entrava dentro le radio, non riuscivano a ascoltare la radio questi, e alla fine sono andati con lo strumento, il misuratore del campo, e hanno cercato il segnale, individuato, e alla fine si è scoperto che era un ascensore di un palazzo, che aveva il motore di quelli di vecchia generazione, un vecchio ascensore, e come attaccava, dice perché questo lo faceva così a momenti, e poi scompariva, e alla fine sono riusciti a trovare la direzione, e alla fine hanno scoperto che era l'ascensore. Eia, no Robe, qua cioè, per me a casa non ci sono accrucchi, cioè ti ripeto, è già da qualche giorno che è comparso, c'è questo segnale, guarda, se registro l'audio e poi te lo faccio sentire come lo ricevo io, dai. Ma è un disturbo continuo o saltuario? Quello che voglio capire. Continuo. E allora se continuo c'è qualche problema, magari può essere anche fuori me, una lampada, cioè inizia dalla mattina alla sera, non si interrompe. Sì, ho notato questo, infatti ho detto boh. Poi io anche stamattina ho acceso e vedevo questo, dai, lo registro e così te lo senti. Ehi, allora, ci sei già, avanti il break. Allora, c'era Gianni, però mi sta mandando una registrazione di un disturbo che sente sul canale 10 e sul canale 12. Adesso sul canale 12 c'è la Grecia, arrivano a fondo scala qua, in FM stanno arrivando a 9.40, fortissimo. Però non mi hanno fatto entrare, hanno detto no, non Italy, deve essere che vogliamo parlare tra di loro. Idem il segnale tuo, 9+20, il radio sempre 5. Guarda una cosa, se cambia qualcosa, da questa posizione a questa qui, se è successo qualcosa. lei, aspetta, facciamo, guarda adesso in questa posizione, sì sì, sto facendo solo una prova, vediamo se Gianni Rubroffetta è rientrato. Eccomi, buonasera. Ma hai mandato qualcosa già? Sì, uno è il canale 12, quel disturbo che sento, e poi l'altro è sul 27-120. Canale 12 ci sono i greci che stanno arrivando a bomba, 9.40 mi stanno arrivando qua da me, e sono in FM, per cui di subito non le posso sentire. Ma me l'hai mandato in WhatsApp già? Eia, no guarda, io qua... nelle mie coordinate non sento niente, sento solo questo, cioè sul 12, sento solo questo fastidiosissimo disturbo e boh, non ho... Vabbè. Ma dove me l'hai mandato? Non mi è arrivato niente. Lo sta ancora caricando, ci mette un po'. C'ho Iliad, ripetitore, Iliad a Luna e Sole, fatelo conto. Ah, Guzia. Comunque c'è anche Claudio, che è originito da Muro, sotto lo rilancio, avanti Claudio per Gianni. Eia, ciao Claudio, buonasera, ben ascoltato, contraccambio e saluti, ti sento abbastanza chiaro e forte oggi, dai, Santiago 8, Radio 5, non so se hai migliorato le condizioni della tua stazione o cosa hai combinato, avanti. Perfetto, questa qua è come si dice, la situazione migliore con cui ti ho sentito, dai, facendo un rapporto con le ultime volte, chiaramente, dai, quindi questa è il rapporto segnale radio migliore sino adesso, dai. Dai che facciamo entrare avanti facciamo entrare avanti Roberto, avanti. Sì, l'ho sentito, è un motore elettrico quello, ci deve essere qualcosa in zona, di qualche apparecchio, compressore, cose, qualche officina c'è vicino a te, qualche cosa, autoclave. Boh, non lo so, non ho la possibilità di vedere, a meno che non abbiano azionato i nuovi apparecchi qua alla stazione, boh. No, di lì vicino a te magari c'è qualche autoclave, è un rumore proprio elettrico, non c'è da sbagliare, è inconfondibile quel rumore lì, non è un ticchettio, questo è un motore continuo, un motore alternata 220. Ti ripeto, da qualche giorno è veramente fastidioso, cioè, anche perché poi ogni tanto sblattera, capito, fa 12, 13, si sposta, non è fisso, ok. Diciamo, se è una cosa persistente c'è modo anche di attenuare, ci sono dei filtri, passa basso, diciamo che ti tagliano con la frequenza, bisogna capire su che frequenza, di che interferisce, però è un rumore continuo, per cui è un motore elettrico, non c'è da sbagliare. Ok, strano che tu non ascolti nessuno in FM, su canale 12. No, sento questo disturbo fortissimo, ma in FM non ci ho provato. Perché quello che sta chiamando ero io, tu hai fatto la registrazione nel momento che io stavo chiamando a quelli lì, per cui in quel momento c'erano loro e tu eri zero. Negativo, non sento nessuno, vabbè. Boh, che strano, che pure la propagazione quando si apre è per tutti, non è che io ci abbia l'accoso, sono su Marte, siamo abbastanza vicini, per cui che strana la storia. Perché mi ascoltavo, tu mi stavi ascoltando in AM, mentre io ero in FM, infatti la voce mia era un po' distorta. Adesso mi è arrivato l'altro messaggio tuo, già me lo controllo, ti rilancio il mic, che poi passerà il mic a cosa, Claudio? Eia, sì, vabbè dai, lo giro direttamente a Claudio, avanti. Sì, più o meno questa cosa è da qualche giorno che si è presentata, cioè c'è questo segnale fisso da Santiago 3-4 che poi ti ripeto oscilla dal canale 12 al canale 13, si sposta, c'è un fischio con dei rumori, insomma probabilmente sarà qualche aggeggio elettrico che è stato attaccato recentemente in zona, vabbè comunque non è un problema. Per Roberto, cioè, sul 12 non ho fatto ascolto sull'FM, quindi casomai dopo ci provo e vediamo un po' cosa succede. Ci sei avanti, Roberto? Sì, ci sono. Allora, sto ascoltando meglio, potrebbe essere un motore di frigorifero quello lì, lo sai, non c'è nessuno, magari qualche bar, qualche circolo, qualcuno che ha messo vicino nella direzione dell'antenna, magari vicino, un appartamento vicino, un congelatore o qualcosa del genere, un po' stretto. Non sono entrato in casa di nessuno, quindi non te lo posso dire. No, vabbè, non dico entrare in casa, però se hai notato se c'è qualche bar vicino, sembra il classico motore di compressore e di frigorifero. Ho capito. Non lo so. Non so che dirti. Vabbè, comunque. vediamo un po' se insomma, vediamo un po' se perdura nei prossimi giorni, dai. Avanti Cla. Ehi, hai ascoltato anche tu Cla? Claudio. No, se te l'ha mandata anche a te il disturbo, Gianni. Sì, no, molte volte ti fanno le lampade a LED, queste qua capitano su certi apparecchi, entrano le lampade a neon a coso, ti facevano quel problemino lì, ma questo è un rumore continuo, fisso e stabile, per cui non c'entrano niente, non è una cosa oscillante, è un rumore continuo, classico motore elettrico, secondo me è un compressore di frigorifero, ascoltando il rumore. Vabbè, adesso sono passato su 12 in FM, sento qualcuno modulare bassissimo, però con sotto quel rumore fastidioso, capito? Qua stanno arrivando 9 più 60, adesso ho girato un attimino su 12, fondo scala sono questi qua in FM. Sicuramente magari mi riporto dietro, boh. Capito? Li sto trainando e neanche me ne accorgo. Adesso mi sposto un attimino su 12, scusate un attimino, voglio fare una prova. Eia. Sono rientrato, Vabbè, sono rientrato. Chi siete? Eia, ti ho sentito. Vabbè, non capisco niente, cacchio, è riuscito a dire Gricia e Bu. Gli ho detto per cacchio era, no? Gli ho detto io ne, non proprio neanche una parola elementare d'inglese, per cui li ho lasciati. Hanno risposto, sì, Italia, Roberto, mi ha detto il nome, non ho capito chi sia, e basta. Ma stanno arrivando a bomba, a fondo scala mi arrivano. Sì, qua c'è stato un attimo che... arrivavano tra gli 8 e il 9, dai. Claudio, ci sei? Che è avanti. Poi ci sono questi lontani, secondo me sono quelli di Ozziri, perché sono 6-7 di segnali, li sento in mezzo al QRM, purtroppo qua c'è molto rumore di fondo e non riesco a capire quello che dicono. A Puglia, ma è cambiato orario? Sì, sono greci, in greco stavano parlando, li ho chiamati in inglese, mi hanno risposto, hanno anche sorriso, poi non ho capito cosa c'era da ridere. Uno ha risposto, poi gli altri non mi hanno neanche cagato le parole poi. Comunque ti faccio i complimenti per la radio, Claudio, sta uscendo una grande radio forte, chiara, potente, mi piace. Ma i greci sono così, a me non mi sono mai stati simpatici in generale, poi ci saranno anche brave persone, però come personaggi non sono molto socievoli come possiamo essere noi gli spagnoli, e i francesi, i tedeschi in linea di massima si riesce a parlare, ma i coso, i greci sono un po', diciamo, resti, non sono socievoli, poi parlano tra di loro, manco tutti cercano. Io dico, quando c'è un collegamento, chiunque sia, anche se dalla Papuasia o da dove sia, non mi sembrerebbe vero a me collegare, invece questo non gli fotte niente. Ok, Gianni, a te il mic. Kappa kappa. Cosa volevo dire? Ti è capitato per caso di scendere da Bricome ultimamente, Robè, per vedere se ci sono le verghe in alluminio? Ieri ero da Bricome, proprio ieri sono... No, ieri, sì, ieri proprio. E ci devo andare anche domani mattina. Verghe, cosa intendi tu? Tubi in alluminio, che cosa? Scatolari, cosa vuoi? Verghe di tubi tondi, capito? Perché dovrei ricostruire uno stilo, mi interessava sapere se c'è disponibilità. Sì che c'è, ma sono sottili, non sono grandi, tu di che spesso li vuoi? Guarda, adesso in questo momento non c'ho l'antenna a disposizione, per cui non ti posso dare dei riferimenti precisi. Comunque era giusto per sapere se c'era disponibilità di tubi tondi in alluminio. Insomma, ho visto nel catalogo di Brico Sassari che ci sono da 1 metro a 2 metri disponibili, poi vabbè, bisogna andarci in persona. Sì che ci sono, quello che ti voglio dire, facciamo riferimento l'innesto dove attacchi il microfono, più largo di quel diametro lì o più piccolo? Più o meno una cosa del genere, dai. Di quelle misure più o meno li trovi, però larghi, se per dire di fare la larghezza di un tubo di Mantova non ne ho visto, a quel punto devi andare a Macedo se vuoi cose larghe e robuste, però se devi fare la dimensione che saranno, penso 3 centimetri il diametro dell'innesto del microfono, dell'apparato, quelli ci sono. Ok, sì, era giusto sapere quello, dai, per vedere se... però ti ripeto, ancora non sono dettagli nelle misure, però l'importante è sapere che c'è qualche minima disponibilità. Sì, poi al limite volendo si può anche andare da Macedo, tanto che ce l'ho qua vicino in Viale Porto Torres, mi viene anche meglio. Sì, Macedo, tanto è appeso da Macedo, in proporzione ti costa molto di meno, adesso non mi ricordo l'alluminio a quanto lo stanno dando al chilo, l'acciaio inox se lo fanno pagare, ma l'azzurro, però di alluminio è un prezzo abbastanza ragionevole, ci sono delle verghe di tutte le misure, di tutti gli spessori, ti scegli quello che vuoi tu, ma devi fare un'antenna, cosa devi fare? Un elemento praticamente, un elemento di un'antenna, però in questo momento non conosco non conosco le misure, capito? Per cui sono, cioè, è a livello di informazioni così molto agli olio. Ok, io le faccio, già trovi un po' tutto. Avanti a te Claudio. Cappa, mi devo sentire un attimino, mi è arrivato un messaggio su Zappa Zappa, voglio vedere di cosa si tratta. Faccio un attimino di bianco, ok? Ci sono ancora comunque Claudio, sempre furti qua da parte mia. Ma stiamo parlando del canale 12, 27 e 105. No, perché su 10 io non sento nessuno qua. No, del 10 adesso, vabbè, c'è ancora me. Io sentivo questi qua, Santiago 6-7, pensavo che fossero quelli di Ozzeri che stessero parlando un 20 minuti fa, dai. Sparviero parlo. No, io non l'ho sentito già da parecchio, però ho passato stamattina a salutare, infatti dovrebbe già sei vivo, no? Dice sempre impegnato per questa trasformazione, trasferimento della nuova abitazione, per cui ci avrà cose più importanti da fare, ma dice che capita di ascoltare ogni tanto. Scusa il telefono un attimo. Ecco, mi sono rientrato. Cappa, mi è arrivato una clip su WhatsApp, però con la connessione che ho ci mette un po' a caricare, infatti sta ancora caricando, sto aspettando di del caricamento totale, così almeno posso vedere. Vediamo un po' cosa succede. Cosa volevo dire? Ah vabbè, no, te l'ho detto già poc'anzi che l'ultimo passaggio, cioè la radio che stai usando adesso, come si dice, è la migliore in questo momento con cui ti ho sentito, dai, modulare. Segnale, a parte il segnale, ma anche la radio è molto comprensibile rispetto alle altre volte, dai. L'apparecchio evidentemente è un buon apparecchio. Sono rientrato io. Sì, sono rientrato, così è mobile come MB40, quello lì. Guarda, ti ascolto una meraviglia, perfetto, non toccare più niente, mettici i sigilli, la cera lacca e tutto. Questa è la modulazione come piace a me, pulita, chiara, non fastidiosa. Per cui lascia stare così, il segnale ottimo, radio perfetta. No, io ho l'MB40 della Mobicom, un apparecchio, c'ha 5-6 bande, e l'ho data a Giovanni Bracco per usarlo, perché lui ci va con un altro apparecchio che non si faceva sentire. Alla fine ho detto prendi questo e usatelo, ce l'ha lui già dall'anno scorso, credo che ce l'abbia. Ok, avanti a Gianni il mic. Sì, sto rispondendo a un messaggio. Vabbè, lo sto facendo al PC, quindi sono più agevolato. Eia, vai di nuovo tu Claudio. Un attimo di bianco. Break. Avanti il break. Ciao Roberto, ciao Claudio. Salutoni e ciao a Gianni. Allora, stavo ascoltando da 5 minuti. Vabbè, dai. No, volevo parlare un attimino con Gianni, ma si è sentato, già rientra subito. Vabbè, dai, riprenderò bene. Ciao Giù, se ti hai fatto sentito un attimino sotto a coso, a Gianni ha detto che si è sentato 5 minuti. L'hai sentita la modulazione di Claudio Lamuro, Giulio? Dai un commento tu. Sì, è perfetta, è ottima così, dovrebbe fare sempre così, usare sempre quell'apparecchio perché la radio è perfetta ed è anche forte veramente, a differenza di altre volte magari che l'ho sentito più basso, però a me interessa che lo ascolti, può che sia alto, che sia basso, non mi interessa più di tanto. Però oggi devo dire che è una bella modulazione, abbastanza forte di radio. Vabbè, il segnale è sempre il solito, non ha importanza, quello che conta è la radio. Avanti Claudio. No, perfettamente, non c'hai neanche nessun disturbo sotto di alternata, di saturazione di qualcosa. La modulazione è perfetta, mi piace, non posso dire niente, per cui memorizza tutto quello che hai fatto adesso e tienilo da parte e non cambiare altre cose. Va benissimo, vediamo se Gianni è rientrato. Avanti Gianni, per te il mic. Sono Giulio, passo a te. Allora prendo io, Gianni evidentemente ancora non si è liberato. Sì, no, ma forse sta leggendo un messaggio. Va bene, dai. Sì, no, devo dire che va bene. Ce l'ho avuto anch'io l'Uniband, ma qual è quello da base fissa? Oh Claudio, ce l'ho avuto anch'io con l'MB5 e poi l'avevo dato in Plymouth, l'avevo dato e dunque per avere un qualcosa di meglio. Avanti Claudio. Sì, è quello, ce l'ho avuto anch'io. Poi l'avevo dato a Franco California, e poi Franco California l'ha dato e definito addirittura in mano a Graziano anche. Vabbè, dai, ha fatto un po' il giro. No, era un ottimo apparecchio, l'unica cosa che debutto che non ha l'FM, ma tutto sommato intanto l'FM non lo usiamo mai, c'è solamente la banda laterale e la M e basta, però come apparecchio funzionava bene e anche esteticamente è abbastanza discreto, non era brutto nemmeno come cosa, come esteticamente insomma. Va bene, dai, avanti, vabbè. Giulio già ne ha avuto qualche, non dico centinaia, ma qualche decina e decina ne ha avuto l'apparecchio. Sicuramente c'hai grande esperienza. Una domanda, tu ne hai avuto tantissimi di veicolari, ti è rimasto qualcuno come più affezionato, che secondo te era quello che ti soddisfava più di tutti, o più o meno non hai avuto questo discorso? Ma diciamo che quello che mi è rimasto nel cuore, anche come moderazione, che secondo me è uno dei migliori in assoluto, è il 294 della Inuit. Quello è eccezionale, perché ha una moderazione straordinaria, quello lì, e anche la ricezione. Vabbè, sono solo 23 canali, non ha importanza, ma per dire, no, forse perché è stato il primo baracchino che io ho comprato, non il primo in assoluto, però il primo che ho comprato proprio spendendo i soldi, perché il primo ancora era un 6 canali della Tokai, ma quello avevo fatto un cambio con un lavoretto che avevo fatto, eccetera eccetera. Dunque non era quello il primissimo, ma il primo che ho speso soldi per comprare il baracchino era l'Inuit, ed era ottimo veramente. E poi tra l'altro in quel periodo si usavano molto anche gli altri canali con i quarzi, naturalmente cambiavamo i quarzi con amici e ce ne andavamo anche sul canale 45, cosa che non tutti riuscivano ad arrivare, perché solitamente erano 23 canali e dunque arrivare al 45 c'era un po' di movimento ed era un po' laborioso, dai. Naturalmente cambiando i quarzi, ma l'abbiamo fatto e siamo andati avanti così. Poi ultimamente ne avevo 12 in tutto, ho fatto fuori 9, adesso me ne sono rimaste 3, però uno non lo darò mai, perché la KB23, quello era un regalo e dunque quello me lo tengo. Gli altri due potrei anche eliminarli, non mi interessa più di tanto, che uno è il 50-24 e l'altro è il Cobra 139 da trazione fissa, ma anche quello, il Cobra, anche quello è stato promesso, per cui lo tengo ancora un po', se non si decide lo do a chi lo vuole. Va bene, riprenderlo bene. Entro al volo, scusate ragazzi, io mi devo allontanare dalla radio e niente, dai, grazie alla chiacchierata, salutoni a tutta la ruota, ciao Giulio, buonasera, salutoni a Claudio, a Roberto e agli ascoltoni, dai, ci aggiorniamo, devo scappare, ok, buona serata, ciao ciao. Ascoltate la canzone Gianni, scusa un attimino. KK, sì Giulio, grazie, ti ho risposto nel messaggio, ok? ok, dai, quella lì è stata fatta proprio per ricordare quell'angelino lì. Vabbè, ciao Gianni, ci sentiamo alle prossime. Avanti, Roberto. Ciao Gianni, ben sentito, sempre un piacere ascoltarti. Vai Claudio, a te. Ok, sì, Gianni è andato via, evidentemente ha qualche impegno. Sì, appunto, stavo dicendo. E poi alla fine ho pensato, ma chi me lo fa fare a tenere tutte queste cose qua che non mi servono più? Beh, tengo uno, al massimo due, non di più, e poi ho fatto fuori tutto. Non mi interessa più di tanto. Ormai basta, toccava stare sempre sposta, spolverando, ma che me lo faceva, boh, basta, l'ho tenuto per tantissimi anni e poi ho cambiato idea. E non credo che farò mai più un rifornimento di baracchini in quel modo lì, nella maniera più assoluta. Vai Robè. C'è una vita e mezzo tu, per cui te ne hai visto di cotte e di crude, soprattutto oltre che vederle e sentire, è grandissima esperienza. Niente da dire, il pace sarebbe la KB23, così? Sì, la KB23, sì, è quello. Quello me l'aveva dato Claudio, dunque per quello che ve lo tengo. Se no avrei fatto fuori anche quello, ma siccome è un regalo, non me lo tengo e non me ne dà fastidio, e devo dire che funziona anche molto bene, funziona molto molto bene. Va bene, dai, avanti Claudio. Grazie a Dio già ne hai tanti pure tu di apparecchi. Io ho un po' di tutto, però di veicolari ne ho 4, ne ho 4 o 5 ne ho di veicolari, poi ho di basi, ne ho 1, 2, 3, 4 basi, anzi 5 basi, e più ho le altre radio. Ok, no, io base ne ho solo uno, ma devo dire che non è che mi piacciono più di tanto le baracchine base, ce ne sono bellissime, sia ben chiaro. L'unico che mi piace, che mi sarebbe piaciuto avere, è le Galaxy Saturn Echo, però non ce l'ho mai avuto e non mi fa nessun effetto, per cui non è un problema. Però quello c'è. Bianco il telefono di nuovo, scusate. Volentieri. Ma non ce l'ho. Ho guardato anche in rete, ma c'è gente addirittura che lo sta vendendo anche 750 euro. Non glielo compri tu un Galaxy usato 750 euro, ma vai, sì, ne ho visto anche da 300, 350, sono 400, tutti i prezzi sono tutti quelli, cose pazzesche. Per comprare per spendere 400 euro mi compro una KF, mi compro con quei soldi di seconda mano, non mi compareggio certamente un Galaxy. Ui, lasciamo perdere, dai. Avanti Robert. Beh, certamente sì, anche perché come radio poi sarebbe superiore in tutti i sensi, e glielo credo, con quei soldi, ripeto, cioè c'è un 440, cioè c'è un 430 o un 140, un 680, se poi aggiunge qualcosina c'è l'850, a voglia ce ne sono di radio, ma intorno ai 600 euro, 850, lo trovi, 600, massimo 700, lo trovi, perché li ho visti tante volte in rete, ma non ho mai pensato di comprarlo, perché intanto io ce l'ho l'HF, per cui mi tengo quello, finché funziona va bene così, poi per il resto, ripeto, non mi serve avere tante radio per avere sempre e usare sempre la stessa frequenza, non mi serve, è una pazzia per me, sono soldi buttati, per cui non è quello che ho fatto. Ho fatto il posto che mi prendeva tutte queste cose, erano tutti dentro degli scatoloni, ho fatto fuori tutto, boh, basta, non ne voglio più sapere. Ripeto, ho solo questi tre adesso, e prima o poi farò fuori anche quelli, non ci sono dubbi. Va bene, avanti Claudio. Sono rientrato io. Sì, sono rientrato, rimango ancora qualche minuto, poi devo andare via. Volevo dire, Giulio, tu mi hai detto c'è il base Cobra, come è fatto questo Cobra? È tipo, tu immaginati un pianoforte, così, ci sono due cose, come si chiama, due smitter, uno per il segnale e l'altro è un modulometro, praticamente. Poi c'è la cosa dei canali e poi ci sono 1, 2, 3, 4, 5 e 6 potenziometri. E poi c'è la NL, l'altro cos'è? L'PA e l'altro che cos'è? Aspetta che guardo. NB off, basta, niente di più. L'avevo modificato io perché è 23 canali, mi non è niente di particolare. L'avevo modificato e ci avevo aggiunto una quartiera tanto tempo fa, almeno 20 anni fa, sono di più, perché avevo avuto un circuitino sul circuito elettronico, mi sembra che era o Roger Kitty, cioè Roger K, non me ricordo, insomma una rivista che compravo sempre, no? E c'era lo schermino e ci ho messo una quartiera e sono diventati 37 canali, da 23 è diventato 37 canali, capito Robert? Sì, me l'avevi mandata la foto, adesso sì, sto ricordando, me l'avevi mandato su WhatsApp tempo fa la fotografia, sì, è una bella radio, particolare, carina, dai. Avanti a te Claudio, il mic. Ok Claudio, ciao, grazie a te della chiacchieratina, alle prossime. Salutami Gianni, tuo padre. cosa volevo dire? Vabbè, già mi avevi già detto come dovevo fare per riavere il numero di telefono, perché io ho sempre quello vecchio, che poi non è più quello. Vabbè, comunque già so come devo fare per riaverlo. Ciao Claudio, alle prossime. Avanti Robè. E anche io adesso stacco, dai. Ciao Claudio, ben sentito, sempre un piacere anche da parte mia. Ok, io devo interrompere anche io perché mi hanno chiamato. Saluto di nuovo a te Claudio, saluto a Giulio, sempre anche lui, un piacere ascoltarlo. Conversazioni sempre interessanti, quando ci siamo tranquilli così va più che bene la 27. Molte volte purtroppo ci sono altri discorsi poco interessanti. Io chiudo, correti definitivo da parte mia, ti rilancio il mic a te Giulio e ascolto l'eventuale finalino. Ciao di nuovo. Ok, ciao Robè, ciao. Grazie anche a te della chiacchieratina, ci sentiamo le prossime. Un giorno ti porto la macchina per lucidare i fari o Robè, ma magari un po' più là, adesso non è il caso, perché non sto uscendo mai, esco solo in caso di strettissima necessità. Pensa che non vado nemmeno a ritirarmi la pensione, proprio per non uscire, sempre per la paura dei contagi. Vabbè, dai, ci sentiamo, ciao Robè, alle prossime. Via, ciao. Attenzione, canale 10, c'è qualcuno, K!